Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per l'attenzione, grazie a Luca Giulio per la regia, grazie a Walter per la visita gradita. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Grazie anche a Margherita Russo che ci ha fatto avere una segnalazione su un episodio di dubbio gusto, la presenza in una vetrina del centro di una sedia elettrica, e ci studieremo con cura il problema. Ci sentiamo. Buona giornata.